Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti a Mebius, ciao Chiara. Eccoci qua, buonasera a tutti, ciao Federico. Allora, noi incominceremo con quando gli animali si prendono delle medicine, non prendono le medicine. Eh sì, si automedicano. Si automedicano. E poi invece parliamo del déjà vu. Ti è mai capitato? Non è una replica di una trasmissione, ma è quando andiamo in qualche posto in cui magari non siamo mai stati. Esatto. Invece ci sembra addirittura di esserci. Magari qualche ascoltatore sembrerà di averci già ascoltato. Va bene, partiamo. Allora partiamo. Dicevamo allora nei titoli quando gli animali si prendono delle medicine. Allora, in realtà nasce tutto dalla domanda, sempre, di uno di voi, di un ascoltatore che vorrebbe rimanere, vorrebbe mantenere questa riservatezza, quindi noi lo chiameremo così Giovanni non identificarlo. Vabbè, comunque non da si sarebbe... Da Trento, ma diciamo Trento una città... possiamo dirlo. Va bene, ok? È la vera città del nostro ascoltatore. La sua domanda è questa, la leggo io, mi faccio portavoce. Il mio cane, ok, ormai morto da tanti anni, quando stava male aveva l'istinto di trovare dell'erba e mangiarsela. In questo modo si autoprocurava il vomito, il rigurgito, e in questo modo si automedicava, cioè dopo stava meglio. Poi ovviamente lui prosegue con altre domande che però porremo, direi che il tema è questo, lo porremo al nostro esperto di oggi, alla nostra esperta, perché torna a trovarci Giada Cordoni. Ciao Giada, buonasera. Ciao, buonasera a tutti, ben ritrovati. Ciao Giada, benvenuta. Ciao, grazie. Tu sei etologa e lavori al Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa. Ti abbiamo chiesto aiuto, per rispondere a questo ascoltatore che questa, è la prima domanda, però in realtà poi sviluppa il tema e ti leggerò le sue domande andando avanti. Intanto cosa rispondiamo a questa prima domanda? È vero che i cani in qualche modo riescono ad automedicarsi come lui ci racconta? Beh, anche i gatti, certo. Bisogna che ci certo, dici qualcosa. Esattamente, ecco. Bravissimo Federico. Infatti è vero, non solo i cani, ma nel mondo e nel regno animale ci sono tantissimi esempi di automedicazione, chiaramente per patologie che possono interessare l'apparato gastrointestinale, quindi parassitosi, infezioni del genere, chiaramente l'automedicazione è limitata a ciò, però è molto diffusa nel regno animale, quindi non solo nei cani o nei gatti, di cui noi magari abbiamo sempre avuto esperienza anche girando per strada, vedendo un gatto che magari mangia dell'erba o il nostro cane. Quindi è una cosa molto diffusa. E perché lo fanno e soprattutto cercano un'erba particolare o comunque tutte le erbe vanno bene, insomma? No, non tutte le erbe vanno bene. Ci sono delle erbe o comunque anche dei fiori, delle foglie che contengono delle particolari sostanze chimiche che possono aiutare gli animali, ad esempio, ad espellere dei parassiti, a curare delle infezioni intestinali, gastrointestinali. Per esempio, faccio l'esempio degli scimpanzé, ma non solo degli scimpanzé, anche degli umani che vivono nella stessa zona dell'Africa subsahariana fanno un abbondante uso, quando hanno delle parassitosi intestinali, di un succo di una pianta che si chiama Vernonia migdalina e che è un succo molto amaro che però sembra avere delle funzioni antiparassitarie. E loro cercano quella specie vegetale. No, ma scusa, tu hai detto umani e anche scimpanzé. Esatto. Cosa c'è una farmacia in cui vanno? C'è una farmacia comune che è conosciuta non soltanto dall'Homo sapiens, ma anche da altri animali come ad esempio gli scimpanzé. Magari gli umani che è una conoscenza ampliata. Magari l'hanno preso dagli scimpanzé, gli umani forse? È molto probabile. Ma scusa Giada, osservando la natura. Ma sono quindi erbe diverse e loro capiscono che hanno individuato che una certa erba serve per qualcosa e un'altra. Adesso immagino che non saranno 25 farmaci diversi, chiamiamoli così, però una magari particolarmente amara che provoca un certo effetto. Okay. O come ad esempio scimpanzé, gorilla e bonobo sono stati visti in natura masticare delle particolari foglie che sono molto molto ruvide, molto fibrose, e masticano per molto tempo queste foglie, poi attraverso le feci espellono le foglie intere e sembra che funzionino proprio come le nostre purghe, come dei purganti, quindi per eliminare i vari vermi o parassiti di cui sono infestati. No, non ho capito bene, le masticano e poi nelle feci sono intere? allora masticano le foglie, le tirano giù intere, proprio come noi facciamo con il le ingoiano, no? Proprio le ingoiano intere e poi escono attraverso le feci intere e funzionano proprio come un mezzo tramite il quale espellere i parassiti, i vermi intestinali, e quindi funzionano come, diciamo così, un ripulitore dell'intestino, una purga antiparassitaria. Brava, bravissima, bravissima. Loro sanno che non devono masticarle, non devono romperle, le devono mandare... Esattamente, esattamente. Sono foglie molto fibrose, quindi molto dure, che in realtà per spezzarle richiedono una notevole quantità di tempo di masticazione. Fai conto, sono un po' come le nostre chewing gum, come le nostre cingome. Tu mastichi, ma in realtà la cingomma non la rompi mai, no? Okay, quindi è come se tu ingoiassi una cingomma intera... La tiri fuori con le feci intera, però questo ti ha aiutato in realtà a ripulire in parte il tuo intestino infettato. Bene, diciamo vengo alla al secondo aspetto interessante della domanda del nostro Giovanni, che dice: succede anche a me come essere umano, e questo l'abbiamo anche detto poco fa, cioè io sento l'esigenza in alcuni momenti dell'automedicazione, cioè se sono raffreddato sento esigenza ad esempio di prendere vitamina C, quindi farmi una spremuta d'arancia e così via. Quindi abbiamo proprio una cosa istintiva, un carattere anche evolutivo, possiamo chiamarlo così? Certo, certo. Noi chiaramente tutti gli individui del regno animale hanno delle predisposizioni innate, quindi sicuramente l'automedicazione ha una base che è innata, poi c'è tutta un'altra fase che è la fase dell'apprendimento, come ad esempio avviene, non lo so, negli scimpanzé. Chiaramente i piccoli apprendono dalle madri a riconoscere certi tipi di piante, ad utilizzare certi tipi di piante, a vedere come le madri consumano questi tipi di piante. Quindi chiaramente in natura, essendo sempre attaccati alle loro mamme, vedono che le mamme talvolta mangiano certi tipi di piante o di foglie o di frutti, vedono come le consumano, quindi quanto tempo le masticano, se le masticano intere oppure ne masticano solo delle parti, e poi loro apprendono anche quindi come utilizzare quel tipo particolare di cibo. Quindi certo, diciamo che c'è una predisposizione innata all'utilizzo e all'automedicazione, ma che poi viene arricchita da un apprendimento che è fatto chiaramente dall'esperienza e dall'osservazione. Ricevono un'informazione precisa. Ecco, però voglio dire, gli animali sono tantissimi. Ho la sensazione che questo tipo di comportamento, l'automedicazione, sia stato studiato in pochissimi. Per esempio, abbiamo tutto il mondo che sta sotto il mare, no? Anche lì ci saranno cose di questo genere, ma credo che sia una delle cose meno conosciute. Io credo che anche negli uccelli ci sia, che uccelli. Si cibano di determinate bacche, appunto, che hanno questo potere. Non so, Giada, se su questo pensa ci puoi dire. Pensa che ci sono alcuni lavori che hanno evidenziato il fatto che, ad esempio, i pappagallini, quelli domestici che noi abbiamo, quelli che conosciamo normalmente, hanno la tendenza a prendere i mozziconi di sigaretta e a metterli dentro il nido, perché sembra che appunto i residui di nicotina abbiano un effetto antibatterico e che quindi in un certo qual modo, tra virgolette, disinfettino il nido dove poi devono essere messe le uova. Torneremo a parlare di questi temi, anche un po' di questi manufatti umani che vengono utilizzati poi dagli animali, perché ovviamente prima in natura non si trovavano, quindi in realtà è un tema divertente, interessante da approfondire magari in una puntata futura. Intanto ti ringraziamo, Giada, grazie come sempre per la brillante spiegazione. Ciao, buon lavoro. Grazie a voi, ciao, buon lavoro. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ecco, non credo che si dica allo stesso modo in tutto il mondo, però déjà vu è usato moltissimo. Ah, immagino proprio. Io credo in Nord America, Europa, Sud America, non so come lo chiamino i cinesi. Non so neanche se esiste una traduzione italiana proprio della ormai nostra lingua. È quello. Anche ho perché... avuto un déjà vu. Un bello déjà vu, anche esatto. Da dire. Però credo che invece tutte le popolazioni ce l'abbiano. Chissà se ce l'hanno anche gatti, cani, elefanti. Però che cosa sia veramente e che origini abbia anche, certo, che spiegazione ci sia nel nostro cervello, forse la scienza è riuscita a darcela solo di recente, nel senso che finora non si sapeva molto. Ora c'è un nuovo studio che è appena stato pubblicato su una nota rivista scientifica, Cortex, ed è uno studio italiano, e infatti qui con noi adesso c'è insomma il coordinatore della ricerca. Diamo il benvenuto ad Angelo Labate. Buonasera. Buonasera a lei e ai suoi radioascoltatori. Questa è una ricerca che è stata fatta in maniera congiunta da due enti di ricerca, l'Istituto di Bioimmagini e fisiologia molecolare del CNR con il quale lei collabora, e poi lei è anche docente e professore di neurologia all'Università Magna Grecia di Catanzaro. Questi due enti di ricerca, insomma, due laboratori che hanno lavorato insieme per arrivare a che cosa? Insomma, professore, forse prima è meglio definirlo che cos'è, perché così, insomma, dal punto di vista così semplice alla mano, lo sappiamo che cos'è. Insomma, il rivivere un po' una storia, una situazione, un'immagine, una scena, il viso dei di suoni. Una persona. Ma in realtà che cos'è scientificamente? Sì, esatto, solo per spiegarle, sicuramente l'università ha fornito un po' il materiale umano, cioè i soggetti sani e i pazienti, e l'Istituto di Bioimmagine CNR i mezzi, visto che abbiamo la possibilità di lavorare con una risonanza magnetica a 3 Tesla a disposizione della neurologia. Il déjà vu l'avete detto voi, un po' ce l'hanno tutti, forse anche gli animali, questo non lo so. Perché no? Con sicurezza, però se gli animali sono anche epilettici, perché non devono avere il déjà vu? Esatto. E il déjà vu è anche presente negli epilettici. È un po' il fenomeno che spesso veniva assimilato a qualcosa di paranormale o di soprannaturale, è questa sensazione psichica, direi transitoria, di avere l'impressione di rivivere una stessa situazione, di rivedere uno stesso oggetto, una stessa faccia, che è comune appunto nella stragrande maggioranza della popolazione normale. È ovviamente una cosa transitoria, non è una cosa continuativa ed è un fenomeno sporadico. Sì, non dura ore, questo lo sappiamo, però non è che dura mezzo secondo. Quella sensazione lì a volte dipende. 4, 5, 6 secondi riesce a durare, quello che le dà quella pregnanza, no? Esatto, e questo che lei sottolinea è già una piccola differenza, questa si sapeva già un po' dal punto di vista clinico, vorrei dire, perché ecco, nel soggetto normale questa sensazione, come ha citato lei, dura alcuni secondi, addirittura può durare 1 o 2 minuti, soprattutto quando si rivivono delle scene come se fossimo in un film, cioè ci sono stati in quel luogo, mi sembra di rivedere il sole che tramontava in quel modo, eccetera. Diverso è la stessa esperienza del déjà vu che per esempio possono descrivere soggetti con epilessia, in particolare epilessia dell'lobo temporale, dove questa sensazione spesso dura più a lungo, alcuni minuti fino anche a 10 minuti, e ovviamente viene corollata da altri sintomi diversi rispetto al soggetto. Questo perché voi avete osservato che in realtà nei soggetti epilettici c'è, una frequenza maggiore di avere un déjà vu. Sì, esatto, questo per correttezza non è stata una nostra scoperta, questo già si sapeva un po' in letteratura. In modo curioso questo fenomeno è stato quasi esclusivamente studiato da psicologi o psicanalisti, non c'erano mai stati neurologi né tantomeno epilettologi che si erano occupati di questo disturbo, pur essendo appunto il déjà vu una forma di crisi parziale senza perdita di coscienza in contesti di determinate forme di epilessia come l'epilessia del lobo temporale. Infatti dal punto di vista neurologico che cos'è allora il déjà vu? Avete fatto un'ipotesi? Guardi, è un po' partito tutto sempre da uno studio che avevo letto qualche anno fa, fatto da uno psicologo della Repubblica Ceca, che su questi soggetti, su individui sani, aveva trovato, sempre con una tecnica di risonanza avanzata che implica post-processing dopo l'acquisizione della risonanza nel soggetto, aveva evidenziato delle alterazioni in alcuni circuiti dei network neuronali che coinvolgevano le strutture temporali e l'ippocampo, in particolare con la corteccia temporale, il talamo e i gangli della base. E la cosa mi incuriosì parecchio perché è lo stesso circuito che risulta essere alterato in chi appunto soffre di epilessia del lobo temporale. Da lì era nata un po' la mia curiosità e iniziò questo studio prospettivo che poi ha portato a questa pubblicazione recente. Bene Labate, entriamo un po' nel vivo, insomma, di quello che avete fatto nei laboratori, in ricerca. Allora, lei ci parlava di materiale umano reperito all'università. Guardi, certo, qui abbiamo una fortuna, pur essendo in Calabria sembra strano dirlo. Intanto il nostro rettore, che è anche un neurologo, che è il professor Quattrone, ci ha dato la possibilità di poter usufruire sia di questa risonanza che del materiale umano. Poi abbiamo un team di epilettologi fatto non solo dal sottoscritto ma anche dal professor Aguglia, dal professor Gambardella, per cui abbiamo avuto la possibilità di selezionare diversi pazienti affetti da epilessia. Abbiamo preso una popolazione di epilettici, per l'esattezza 63 epilettici screenati e 39 soggetti sani, ovviamente sottoposti agli stessi test neuropsicologici per poter dire se avevano o meno esperienza del déjà vu, sottoposti agli stessi esami elettrofisiologici, quindi a un elettroencefalogramma, per escludere se ad esempio qualcheduno dei soggetti sani potesse avere un'epilessia magari non sapeva di averla, e poi da ultimi all'analisi con la risonanza avanzata, con questa analisi di post-processing di volumetria delle aree cerebrali. E questo ci arriviamo subito. Adesso però voi avevate a disposizione un campione fatto da epilettici che vi dicono sì, ne ho tanti di déjà vu, e altri che magari vi hanno detto di no, così come i normali. Esatto, infatti nei due campioni, diciamo, grossi, epilettici da un lato e controlli sani dall'altro, c'erano due altre categorie, cioè okay, gli epilettici che avevano il déjà vu e coloro che non l'avevano, certo, controlli okay, sani che avevano e che non avevano il déjà vu. Adesso vediamo un altro possibile fraintendimento della vostra ricerca. Non è che voi avete misurato dei momenti di déjà vu, perché questo è fisicamente impossibile, no? Esatto, e la ringrazio per la domanda, anche perché sarebbe difficile beccare il momento giusto. Esatto, perché è un fenomeno transitorio, psichico, random, per cui non è possibile. Forse in futuro riusciremo magari anche noi con dei task specifici che riescono a determinare, a rievocare la sensazione e quindi a poterla studiare magari con la risonanza magnetica. Per cui per distinguere questi soggetti abbiamo usato solo un test neuropsicologico validato a livello internazionale, per cui l'unica cosa che potevamo fare è paragonare coloro che riferivano frequentemente questo fenomeno psichico verso coloro che non lo riferivano. Ma voi che cosa gli facevate? Dei test, cioè rispondevano a delle domande mentre era in atto la risonanza magnetica? No, le domande e i test erano sottoposti a pre-risonanza magnetica. E durante la risonanza? Durante la risonanza il campione non eseguiva dei test, perché questo non era uno esperimento di risonanza funzionale. Okay. Siamo andati a valutare solo la volumetria, i volumi, un'analisi voxel by voxel che si chiama voxel based morphometry. Cioè? Andiamo a vedere un po' le aree cerebrali, se sono diverse tra chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Ah, ok. Okay. Va bene, avete analizzato quelli che ovviamente l'avevano avuto. E da qui cosa è venuto fuori? La cosa è stata interessante perché si è visto che le aree cerebrali coinvolte erano totalmente diverse. Cioè nel soggetto sano erano delle aree, in particolare l'insula e le sue proiezioni verso tutto il sistema limbico, quindi l'area dell'emotività nel soggetto umano. Mentre nei pazienti epilettici le aree coinvolte erano le aree temporali, mesiali e l'ippocampo in particolare, assieme alla corteccia visiva, per cui le aree appunto adibite alla visione e le aree adibite alla memorizzazione, in particolare alla memoria a lungo termine. Nel paziente epilettico le aree coinvolte sono quelle della memoria, per cui probabilmente il déjà vu corrisponde nel paziente epilettico ad una crisi epilettica, può essere una memoria falsa. Diverso è per l'individuo sano, dove probabilmente l'esperienza del déjà vu è un inganno emotivo. Quindi siamo arrivati adesso a delle possibili ipotesi che si stanno facendo, sono i primissimi studi. Adesso io appunto le chiedo, cammino in una strada di una città, non sono mai stato in quella città e improvvisamente ho la sensazione che io in quella strada ci ho abitato. Dove sarebbe la trappola in cui la nostra testa cade? La trappola è questa, essendo ovviamente un'ipotesi, essendo coinvolta come area cerebrale l'insula e il sistema limbico, quindi il centro dell'emozione, è verosimile che noi, tutte le nostre attività quotidiane, probabilmente immagazziniamo delle emozioni che ci suscita qualsiasi attività della nostra quotidianità, che però immagazziniamo sotto coscienza, diciamo a livello incosciente. Sì, sommerse. Ed è qualcosa che invece riemerge quando ci troviamo di fronte ad una situazione, un profumo, un colore, una particolare predisposizione. A rivivere un po' le stesse emozioni, sensazioni. Esatto, quindi quell'emozione ci richiama un qualcosa che noi poi descriviamo come mi sembra di esserci stato. Facciamo un esempio, vedo una parete di mattoni e vado a recuperare un'altra parete di mattoni che ho visto un anno prima, che qualcosa ha a che fare con quella e io le metto insieme. Ecco, questo per i soggetti non patologici. Non patologici. Ok. Sì. Invece per gli epilettici è diverso. Sì, l'epilettico verosimilmente ha un ricordo che per l'epilettico è reale, essendo l'ippocampo coinvolto, cioè io sono sicuro che sono stato qua, solo che una cosa, l'epilettico lo descrive che, in modo frequente, una cosa che mi persiste per alcuni minuti e che addirittura non trovo neanche piacevole, però in realtà è un ricordo falso, essendo diciamo il circuito alterato della memoria. È un po' una conseguenza della patologia. Esatto. Ok. In presenza di una pressione forte della memoria che ha l'epilettico, chiaro. Qui la trappola è più pesante. E quindi diciamo. non è facile riassumere che cos'è dal punto di vista neurologico il déjà vu, perché appunto dipende dal soggetto che lo ha, insomma, lo vive. Sì, ma diciamo che se dovessimo darlo un po' per, come dire, per scontato, è verosimile che sia un'alterata emozione, come ho detto prima, un inganno emozionale nel soggetto sano, perché se no non sarebbe neanche spiegabile come mai 8-9 persone sane su 10 hanno questo fenomeno. Diverso è per il paziente epilettico, non tutti i pazienti epilettici hanno questo disturbo, ma lo hanno in particolare coloro che soffrono di un'epilessia che è quella del lobo temporale, dove il lobo temporale è prevalentemente colpito e non funziona bene. Sempre per i soggetti normali, è possibile ad esempio che si abbia un déjà vu per un ricordo dovuto magari ad una situazione avuta in sogno, ad esempio, cioè che si riporta alla mente magari un sogno, comunque qualcosa di irreale, qualcosa, esatto, dici, che no? Però non è stato vissuto realmente. Guardi, la sensazione le direi di sì, anche perché su questo test neuropsicologico che si chiama IDEA test, dall'acronimo inglese di questo studioso che l'ha validato per la prima volta, sono anche annoverati questi tipi di items, cioè e tu quando rivivi il déjà vu hai la sensazione che sia qualcosa che hai avuto in sogno o altro, per cui è verosimile che accada la stessa cosa, però io sto facendo delle ipotesi su qualcosa che è un primo studio. Questo è ancora più complicato. Proprio gli inizi. Un gruppo di persone sane che erano 39, per cui non è un campione di 4.000, 5.000 soggetti sani o numeri più grossi. È probabilmente una delle ricerche più difficili da fare, perché poi nel momento in cui fossimo capaci di generare dei déjà vu per studiare, a quel punto vuol dire che sappiamo cosa sono. Quindi... Esatto, non è facile come per studiare un epilettico. Un epilettico ha un'anomalia sull'elettroencefalogramma, per cui noi è come se avessimo un trigger. Sì. Abbiamo un segno che ci permette di dire in quel momento sta succedendo questo. Sì. Il déjà vu è random, è un fenomeno di per sé transitorio, è un fenomeno psichico, qualcuno non lo descrive. E la cosa più curiosa che capita nei nostri ambulatori di epilessia è quando si chiede: lei ha mai avuto un'esperienza del genere? C'è sempre il partner o chi l'accompagna che dice sì, ma ce l'ho pure io, certo. Quindi sono malato, devo fare. Certo. No, sa che c'è l'opposto del déjà vu, che è lo jamais, esatto, cioè quelle situazioni nelle quali noi continuiamo a trovarci in una situazione assolutamente nota, però insomma, ci sembrano talmente sempre nuove. Esatto, per esempio un grande amore è così, è un jamais vu. Ogni volta possiamo rinnovarlo. Dal punto di vista clinico possono essere in questo senso assimilabili. Quindi mi verrebbe da dire che probabilmente sono le stesse aree coinvolte ma rovesciate. A rovescio. Coinvolte, però diciamo non ci sono dati al momento. Né sul jamais vu. Ci torneremo. Grazie Lamarck, buon lavoro. Grazie a voi. Che roba strana questa qui del déjà vu. Sì, però ce l'abbiamo tutti, secondo me ce l'abbiamo tutti. Sì, ma la spiegazione è notevolissima. Va bene, e se volete mandarci, sì, diciamo, ricordiamo solo la mail, dai, allora, per mandarci le domande. Noebius@radio24.it. L'ho detto giusto. Ciao, buona settimana a tutti. E a tutte.